Ma scattando pure. Stamattina ce l'ho fatta, ma stasera non ce la facevo più. Sbagliato. Ma ci sei o non ci sei? Stavo mi ci provo con me. Grazie, sono. Una scappa. Era in apparato. No, no, sono sdraiato. E quindi c'è il dedo con la febbre. Scappa. Ah, mi dicendo, ma l'ho fatto io questo film? No. Scappa. Vabbè, siamo tutti e due con la febbre, ragazzi. Mamma mia. Sto un bel male. Ieri per Paolo, non avevo influenza. Non ce l'avevo, ma l'avevo solita ieri notte. Allora, nuovamente. Quanto mi hai già? No. Già. Che cosa? Sento, con quanto mi hai? Sei stato a dormire. Però, non credo, me la farei già. Ah. Adesso muoio. Se ti stai dormendo ti lascio dormire. Ne ho visto. Ti lascio dormire, se vuoi dormire. Non ci sono, non ci stanno problemi. Stanco, sì. Ma tutti non si addroncate, faccio. Tanto lo stesso, la volante. Ma che sono andato. Che affare. Si piglia dolore e rini, questa influenza, un bell'ore. Tutta la passiamo a durore, faccio. No, ma stasera ho detto no. Sei sentinuto a turno. Non ci va, scusate. Negativo, anche perché c'è da parecchio lavoro. E stasera che c'è la luna? Che ti pare? Ha ragione. Ora, che male ne va? Piacevo un po' perché stamattina ho incassato qualcosa, mi ho dato le mance. Allora, ma non ce ne sono più mance come una volta. Una volta ti davano anche 10, 5 euro. Mi sto mentalando un passato, gli danno la giudizio, una volta al giorno 5 euro le ho viste. Da un signore che non me l'aspettavo nemmeno. Dopo, via, occasione. Ma, pare che sto con la luce qua, dentro l'acquario. Dentro l'acquario, sì. Facendo il pesce. No, dove volevo dire il bacchio era dell'acquario. Che cappa, non ve ne so più cliente come una volta già. Chi ti dà delle rimacce in azzardo? Sì, ti danno un euro, 2 euro, roba così. Però alla fine ci fai qualche sommetta, già va bene. In passato ne ho fatto soldi. No. Quest'anno è andata male. Ma sempre l'ho fatto un 200 euro. Ciao, ma che mare c'è per passare un Natale buono? No, non so, marino, marino. Ma gli altri anni non ne avremo più di più. Già lo so, già. Arrivo qua. C'è molta crisi, c'è Caterola. Conosco una persona che adesso devo, se non trovo un lavoro glielo faccio fare, perché una persona che conosco molto bene io, allora, se riesco a trovare un lavoro, lo sai come sono questa, cioè, senza luce in, cioè, sono quasi per staccare la luce in casa, senza affitto da pagare, cioè, proprio mi hanno sequestrato la cucina perché non ce la faceva pagare, sono proprio nella merda. Infatti adesso vedo se trovo questa persona qua, se la c'ha pure qualche cosa. E poi raga, visto va, quelli lì che passano un Natale brutto, Buongiorno. Ciao. Ma non mi ricordo, Pomponio. Papà, buongiorno, salutoni a tutti e due. Salutoni anche a te. Grazie. Farò rimettere che Gianni ha caputo. Dov'è Gianni mangiando? No, mi sembra che Gianni ha caputo. Ah, dormito. Dove è dormito, eh? Non fa niente, c'è la fine di briglia. Vabbè, dai, io mi lascio, adesso mi sdraio un po' perché sono molto stanco. Ma dei mari rossi, ho preso l'influenza. Dai, ce la risentiamo dopo. Sì, d'accordo. C'è un buon cuore, c'è anche a Gianni. Ciao, adesso ci sentiamo dopo, là, ciao. Ciao, sei dormito. Ma sto arrivando, un po'. Ce l'hai di segnale. Allora, di buona. Eia. Non sai cosa è, hai visto il catalogo? L'Intec 550. No, non l'ho visto, l'Intec 550, la verità non lo conosco io. So che siamo, sta facendo arrivare la Palino, ma adesso per arrivare dopo lo fa vedere. Ah, quello lì è un altro nuovo, ne ha parecchio. Hanno il processore, di modo d'azione, non dovrebbe toccargli niente, dai, c'è già bene così. Senti questo qua che c'è bene. Sì, vabbè, ma qual è la MFM? MFM 400 canali, finale a MOSFET, mi stupisci di ultima generazione, va alla grande, dai. Sì, se 99 euro MFM va bene, un regalato è la quella cifra. No, ma non mi sento male di andare laterale, lì mi sono preso, io no, cioè ce l'ho, la laterale ne ho due, quindi no, c'ho due inter, 34 canali. Mi entra anche nelle barattine, no? Io pensavo che c'erano le barattine, dai, c'erano le barattine, la mandano qui. Che prendere. Vabbè, non mi interessa, però mi piace molto con l'apparecchio. Perché già va già bene lui così, non c'è da fare niente, lo senti la modulazione che è? Che bella piena. E quindi vanno già bene, questo non costa 99 euro, questo costa mi sembra 120, e dire qualcosa di in più. Se mette per tipo gestire, le cose, capito? Un attimino di bianco che fa la controllabile apposta.